pecador poc'anzi intesi. Al quel periglio vano dissimular lo farò. Alla novella aurora saliti saremo. Oimè, che dici? Ma dei nostri nemici avrem vittoria. Pare abbiamo l'ora ardire, bando e coraggio. Tu va, le belliche opre, nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi. Di qual te tramute il nostri ben risplende? Il presagio funesto thank you. Oh, siam giunti, ecco la torre, ove di stato gemono i prigionieri. Oh, l'infelice, ivi fu tratto. Vanne, lasciami, né ti mordi, né ti prenda, salvarlo io potrò forse. Thank you. Thank you. udiste come albeggi la scure al figlio e dalla madre il rogo. Abuso forse quel poter che pieno in me trasmise il prence, fatal mi traggi, donna per me funesta, ovelle mai. Ripreso Castellordine e contezza non ebbi, e furo indarno tante ricerche, tante. Oh, dove sei? A che venisti? Egli è già preso all'ora estrema, e tu lo chiedi? Osar potresti? Ma sì, per esso, pietà, domando. E tu deliri? Pietà! Tu deliri? Pietà! Io del rival sentir pietà! Muovete, muovete, io del rival sentir pietà! Basta! Grazia! Prezzo non abbia alcuno!

Thank you. io donna in me gli sguardi da chi la vesti e da quel prezzo parlar non vuoi. Intendo! Oh, quest'infame d'amor venduto! Oh, quanto ingiusto! Venduto ancor che mia giuro! Oh, come l'ira ti rende cieca! Oh, quanto ingiusto, crudele, crudele sei me! Infame! Se ne fuggi, oh, sei perduto! Thank you. farò. Ecco l'istante, io voglio...